al divan negli orecchi è come un tuono infernale. Le luci viola ribalzano negli occhi liquidi dei danzanti. Balli frenetici infiniti che continuano ad andare avanti. Mascelle impazzite, e se penso le loro fottute vite, appeso ad un filo che mi sta a cuore. Collasso morte per disidratazione, con la bava alla bocca e la nera signora che vi urla su avanti, sotto a chi tocca. Ma state attenti ragazzini, con queste cose non si gioca. Ne basta solo una per causare un point break, sì, un punto di rottura. Sete anomala, rialzo di temperatura, con atti di vomito e allucinazioni, di onnipotenza sulle tue cazzo di sensazioni. Ti senti in grado di ballare all'infinito, ma sono tutte illusioni, senza pensare alle più gravi complicazioni. Ipertermia, sindrome depressive, tachicardia, danni cerebrali permanenti che tramutano in merda tutto ciò che era nelle vostre menti. E quando non vi si alza più vi accorgerete che siete rimasti anche impotenti. E tu che rispondi con movimenti del corpo quasi automatici, veicolati, costretti, come se foste dei burattini quasi perfetti. Quindi fai in modo che non accada tutto questo, perché una volta dentro solo tu sei responsabile di te stesso. Non cadere nell'eterna maledizione, fottuta maledizione, nel supermarket dello sballo. Si aprono le danze, si aprono le danze, si aprono le danze, si aprono le danze. E questo è quel che dico, e questo è il mio pensiero. Uscito da quello che vedo, sto parlando della pastiglia dell'infelicità, presa dai figli di papà o dai fighetti di discoteca, che dopo notti e notti di disco sballo diventa un'abitudine maledetta. E la tua scatola cranica si fa sempre più piccola e stretta. Ragazzi con pensiero stolto, ragazzi senza anima e corpo, ragazzi perduti, ragazzi fottuti, con il cervello mai distrutti. E se penso che prima era il luogo della musica, del divertimento, oggi invece è diventato una bolgia di sbornie chimiche da spavento, che non diverte ma imprigiona, che non svaga ma stordisce, poi improvvisamente non basta più, e ne ingoi 3, 4, 10 per volte e mandi tutto giù, di che non ti fregassi il cervello, di che non arrivi a sentirti un ramo secco, e quando esci di lì ti senti come un cane triste e cieco. Sulla pista ti credi sempre un dio, ma sei solo nei tanti che affogato nella merda, ed è difficile tornare a galla, fino a quando uno ci torna e si sballa. Si aprono le danze, si aprono le danze, si aprono le danze, si aprono le danze, ma io non ballo nel supermercato dello sballo. E quello che vuoi fare, se vuoi farlo pure fallo, fai ciò che credi. Ha! Io sono in pace con me stesso, sono sempre in piedi, e non me ne frego di quello che mi gira attorno. Quando vedi i miei fratelli aspettando il giorno, perché non sono un ignavo, o di questo argomento stai sicuro che neanche ne parlavo. Non dico cazzate, non prendermi per coglione, ho visto la merda e ho la soluta ragione di quel che dico. Sono i fatti reali, non è potuta finzione. Sentenza! Vive e lascia vivere la mia filosofia, fino a quando non mi rompono i coglioni, allora via, scatta la violenza. Cosa che cerco di evitare prima di attaccare? Parola di sentenza! E non mi spreco e non perdo la pazienza con crimini e ragazzini di tendenza. Non ho la puzza sotto il naso, non vi chiamo delinquenti, siete soltanto un branco di pecorelle sparite incoscienti. E quindi penso di essere stato chiaro, anche se nella mia bocca c'è rimasto del sapore di amaro. Quel che so di sicuro è che sentenza non lo vedrete mai ballare. Stronzi, continuate ad ingoiare. Si aprono le danze, si aprono le danze, si aprono le danze, si aprono le danze. E chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. E chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. E chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è.